diceva ce mi dà, ma sono tutti veramente che dimmi in generale faccio ma perché ero precace, quando ho detto ma precace che la tribunale ho un pacchetto di otto, ma mi si dà che mi dà spazio dare al necchio. E non è che i sciatti, da mattina mi viro dare alla teca, e che te mangi tra me, la tessi dà che mi dà ho un pacchetto le chatti arrivare ma va c'è chatti non metto apri di grande grande beh e capi caudo tirunga non si la da facci e se va napi sheshi me carne che tirunga da e hanno quando tu canna apri più regano mi già apri tu manda tapi che la colla tiro quello la tiro e risa e hanno apri tu magi per me ti tu e sa da già aram canna balla botto già apri tu mat mangi tu carne mi vede con pidi arrivo tiro a vedi io tu ne apri tiro da mi e quel capi tu quello tu bidono da apri da sanje hatta apri ti vince ප්‍රතිපදිතමයි ලැබෙන්නේ කියන එක තමයි පැහැදිලිව ප්‍රසිද්ධි ප්‍රකාශ කළා.